che è stato contestato in strada a Padova. E sui danni provocati dal maltempo in Veneto, ma anche sul crollo a Pompei, è intervenuto oggi Napolitano. Colpa dell'incuria e del mancato rispetto delle regole, ha detto il capo dello Stato. E intanto sul Veneto continua a piovere e c'è preoccupazione anche al sud, soprattutto in Campania. Nel Salernitano è esondato in più punti il fiume Tanagro. Aperto un fascicolo per omicidio colposo sull'incidente che stamani ad Assago, alle porte di Milano, ha causato la morte di un operaio e il ferimento di due colleghi. Tre stavano lavorando su montacarichi che, forse per il peso eccessivo, è precipitato dal quinto piano. Con 7 milioni e 600 mila spettatori, oltre il 24% di share, ieri sera la puntata d'esordio di Vieni via con me è stato il programma più visto di Rai 3 degli ultimi 10 anni. La trasmissione di Fazio e Saviano ha stravinto anche il confronto col Grande Fratello. È iniziata la nuova avventura di Valentino Rossi alla Ducati a Valencia, il primo dei due giorni di test prima di salire in sella. Per Valentino un inchino davanti alla sua nuova Desmo 16 di Borgo Panigale. Per il momento è tutto, a più tardi. Ha fatto bene a inchinarsi davanti alla rossa, perché ci aspettiamo grandi cose. Deve scoppiare un amore praticamente da domani, se non oggi. Va bene, amici, buon pomeriggio ancora su Easy Network, le 16:07. Buon pomeriggio da Alberto Martin. Abbiamo un appuntamento adesso. Che cosa ci giochiamo oggi? Ma io direi che, essendo il secondo giorno della settimana, potremmo sentire anche qualche disco nuovo, legato chiaramente a un artista che noi suoniamo e seguiamo il suo cammino dalle cose vecchie alle cose nuove. Quindi facciamo un bel ieri e oggi. Due coppie di artisti, un classico e una nuova, e i protagonisti di oggi saranno un gruppo straniero e invece un duo italiano. Non vi dico altro. Su Easy Network, Evolution, il cammino di un artista, la sua storia che continua.